Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'Epifania, tutte le feste le porta via, eccoci qui. Buongiorno da Nicoletta, siete pronti? Siamo pronti per un nuovo anno, vai che si parte. Voi come vi sentite? Tranquilli, carichi, preoccupati, speranzosi? Scrivetemelo al 349-238-6666, siamo anche su Facebook e su Twitter. Oggi vi propongo proprio questa domanda perché vorrei fare un mini sondaggio per avere il polso della situazione. A proposito di polso, provate a misurare la sua circonferenza, perché nel corso della trasmissione può venire utile. Immagino che sappiate la vostra altezza. Allora, abbiamo tutto l'occorrente per avere informazioni sulla nostra costituzione. In studio con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno ai nostri ascoltatori. Si inizia bene l'anno, si è qua con benissimo. Noi proprio in carne e ossa. Allora, dottor Gargiulo, meglio misurarsi il polso che la pancia, perché dopo le vacanze sarebbe una crudeltà. Brava Nicoletta, per una volta, come si dice, il medico pietoso, in realtà non è così, per una volta andiamo incontro ai nostri ascoltatori. Effettivamente siamo usciti dalle vacanze di Natale che possono essere state un po' traumatiche dal punto di vista nutrizionale, allora lasciamo la pancia da parte, la misureremo più avanti. Il polso invece non è cambiato, grazie al cielo, e la misura del polso, che si prende con un normalissimo metro da sarta, la classica fettuccia metrica arrotolata intorno al polso, al di sotto di quel bozzetto che tutti noi sentiamo sotto la mano, è inutile, sì, entrare nelle diciture carpo, lasciamo perdere, un bozzettino si sente, sì, sul lato, sotto, andando giù dal mignolo lo troviamo, al di sotto di quello giriamo questa fettuccia metrica e misuriamo, otteniamo una misura che ci fa sapere più o meno la nostra costituzione. E quindi voi siete pronti e potete dirla all'800 24 00 24. Misuratevi il polso, serve anche l'altezza, dottor Gargiulo? Certo, serve anche spannometrica. L'altezza? Beh sì, perché poi completa il dato con un rapporto polso-altezza che ci dà ancora una migliore definizione della nostra costituzione fisica. E oggi, cari amici, prenderemo anche altre misure. All'inizio dell'anno è quasi d'obbligo fare un check-up della situazione, dei nostri punti di forza e di quelli di debolezza, per affrontare gli impegni con sprint e senza troppo stress. Dottor Gargiulo, il nostro polso registra anche il nostro stress, perché quando siamo tesi, affannati, preoccupati, ma anche emozionati, il battito aumenta. Esatto, lì non serve classico. Più la fettuccia metrica, no. Ma appoggiamo, se misuriamo il polso, il nostro polso, appoggiamo anche il pollice sotto il pollice della mano controlaterale e sentiamo un battito sotto le dita. La frequenza di questo battito ci dice se siamo in una condizione di stress, perché una delle prime cose quando il nostro organismo risponde allo stress, cioè a qualcosa di negativo, è quella di aumentare la frequenza cardiaca e quindi la circolazione, l'afflusso di sangue ai vari organi e ai muscoli. Quando però questo polso batte velocemente per troppo tempo, ecco che possono cominciare dei danni anche per le arterie. Oggi giriamo tutti intorno al polso, quindi misurate il polso, ascoltate il battito per vedere se siete anche sotto stress. È logico, perché l'inizio dell'anno ci mette un po' sotto pressione, ma proviamo ad evitare che faccia salire la nostra pressione. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore mio, sono proprio una tiella vecchia. Sì. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì? Quant'è? Aspetti. Sentiamo, no? Ai. Ai. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Dottor Gargiulo, tratto proprio dal medico della moto. Grande Alberto Sordi, aveva perfettamente ragione, meglio bassa che alta. Meglio bassa che alta, quindi questo è anche un altro valore che possiamo dare oggi. Sì, tre valori ci interessano, la circonferenza del polso, il battito che avvertiamo quando appoggiamo appunto le dita sul nostro polso. Perfetto. E anche la nostra pressione. Assolutamente importante, il dato della pressione andrebbe misurata con una certa regolarità, anche se non siamo ipertesi. Se siamo ipertesi il discorso cambia, ma se no va misurata con una certa regolarità, e soprattutto dopo i 30-35 anni non dimentichiamoci che la pressione ahimè, è un po' silenziosa, non ci dà i suoi segnali di un suo aumento, ma il suo aumento può essere veramente importante e soprattutto contrastare questo aumento con varie metodiche farmacologiche e non farmacologiche. E in linea con noi, dottor Gargiulo, noi abbiamo il piacere di avere Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training. Daniele, ciao, buon anno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buon anno a tutti, buongiorno dottor Gargiulo. Buongiorno. Daniele, le tecniche di respirazione dello yoga hanno dimostrato di essere di grande aiuto nel controllo di numerosi parametri fisiologici, tra cui proprio anche la pressione, soprattutto se collegate a dei fattori psicologici. Esatto Nicoletta, è ovvio che un pensiero tensivo, un pensiero negativo avrà un riflesso immediato su alcuni parametri fisiologici, come ricordavi tu, quello della pressione è particolarmente significativo, quindi si tratta di promuovere un pensiero positivo, un pensiero orientato in modo costruttivo a cose diciamo buone, a un programma di vita che sia il più possibile improntato a una visione più ampia delle cose. E come fare? Perché queste sono parole, ma lo yoga ha la straordinaria capacità di essere molto pratico, molto diciamo sul campo applicabile. Beh, ad esempio il respiro, di cui noi parliamo spesso, Nicoletta, è un ottimo sistema per agire sul corpo e sulla mente. Nello yoga viene proprio visto come elemento di connessione fra il corpo e la mente, e l'applicazione specifica di alcune tecniche di respirazione dello yoga possono avere un riflesso positivo anche nel campo appunto del controllo della pressione. Quindi Daniele, in pratica che cosa possiamo fare? In pratica possiamo eseguire una semplice meditazione sul respiro, tenendo il respiro come focus, come punto di concentrazione, che ci permetta di aumentare progressivamente la fase della espirazione rispetto all'inspirazione. È molto importante perché aumentando solo anche di qualche secondo la durata dell'espirazione rispetto all'inspirazione si promuove la funzione del sistema nervoso parasimpatico, che è in diretta connessione con l'effetto di rilassamento psicosomatico. Quindi si può iniziare appunto aumentando magari di un secondo, due secondi l'espirazione rispetto all'inspirazione, fino ad arrivare a quello che nello yoga definiamo un ritmo 1-2, dove l'espirazione dura il doppio dell'inspirazione, vale a dire che se la mia inspirazione è di 3 secondi, l'espirazione potrà essere anche 6 secondi. E teniamo questo ritmo, Daniele, per quanto tempo? Ci fermiamo un 5-10 minuti, è troppo, meno, di più? Ma guarda Nicoletta, nella nostra scuola di meditazione, che è quella di tradizione malayana, diciamo che anche un minuto, due minuti di meditazione più volte al giorno, magari inframmezzando i vari momenti della giornata con brevi ma intensi richiami a questa consapevolezza del respiro, possono essere veramente di grande, grande aiuto. Quindi può essere anche una breve meditazione di un minuto, due minuti, e non ci rendiamo conto talvolta di come piccole cose possono ottenere un grandissimo risultato. Ecco, prendiamoci questo messaggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori di Daniele Belloni. Piccole cose possono avere veramente delle grandi e delle benefiche ricadute nella nostra quotidianità e sul nostro stile di vita. Grazie Daniele per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. Nicoletta, buongiorno a tutti. Abbiamo Silvia che ci chiama dalla provincia di Lucca, 800 24 00 24. Silvia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, ciao. Eccoci. Devo dare le mie misure? Se vuole, noi oggi giochiamo intorno al polso con tante misurazioni, senza anche, parleremo naturalmente anche di pressione, di battito e di circonferenza del polso. Silvia, allora, quindi può sono... scegliere. Io sono, ho 14 centimetri di polso, 160 centimetri di altezza, la pressione è 60-90, ma il battito invece non me lo trovo. Il battito, senza battito Silvia, dottor Gargiulo, è l'emozione che a volte lo fa accelerare, a volte sparisce del tutto. Allora, 14 cm di polso e 160 di altezza, dicevamo prima importante l'altezza, facciamo questa proporzione, cioè dividiamo l'altezza per il polso, per la circonferenza del polso, tutto espresso in centimetri, e otteniamo un dato. Nel caso specifico della nostra amica siamo di fronte a un soggetto che è longilineo, a questo punto dobbiamo vedere, perché ha più di 10,4, più di 10,9 essendo una donna, e quindi siamo un soggetto longilineo, per cui da questo punto, questa è la sua costituzione, sì. Non sappiamo il peso, quindi non possiamo dire quanto il peso possa essere sovrappeso o meno, ma essendo longilinea lei deve tenersi su un peso che è calcolato con una formuletta che più avanti vedremo. Ancora, non riesce a prendersi il polso, questo perché probabilmente non posiziona bene il pollice sotto al pollice della mano controlaterale. E allora facciamo una prova, faccia scorrere un po' il dito premendo leggermente, a un certo punto comincerà a sentirlo questo battito del suo polso e saprà se la sua frequenza è ottimale. Una frequenza in questo momento, giustamente Nicoletta ci dice, potrebbe essere accelerata, certo, perché potrebbe essere emozionata al parlare per radio, e quindi ad esempio la mia frequenza in questo momento è più alta sicuramente. Non ci credo, non ci credo. Grazie a Silvia, quindi Silvia, faccia scorrere il dito, si può prendere anche il battito però sul collo, dottor Gargiulo. Assolutamente, ci sono, si può anche sentire sul collo, e si sente sul collo quando il polso non è percepibile, in condizioni ad esempio se ci troviamo di fronte a un soggetto che sembra svenuto, che è per terra e può sembrare una situazione critica, se non sentiamo il polso subito al collo per capire se c'è questo battito. Dottor Gargiulo, abbiamo detto che la pressione può, e anche il battito del nostro cuore possono aumentare quando siamo un po' agitati, certo, o stressati, anche piacevolmente emozionate, ma ci sono anche altre situazioni che fanno muovere i valori della nostra pressione fisiologicamente. Sicuramente un'attività fisica, un'attività sportiva, qualunque momento di impegno del nostro organismo da un punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che sono attività anche piacevoli. Noi teniamo conto, ad esempio, con i cardiofrequenzimetri, il nostro atleta che fa una corsa si rende conto di quanto aumenta la sua frequenza cardiaca, fino a che punto può arrivare, di quanto l'esercizio sia ottimale. Il polso, certo, è veramente il polso della situazione del nostro corpo, cioè ci dice se stiamo lavorando bene da un punto di vista fisico o se abbiamo esagerato. Questo sia quando noi facciamo attività fisica che quando siamo a riposo. Esattamente. Diamo alcuni valori orientativi per capire se l'attività fisica che noi svolgiamo, ad esempio, è giusta per noi, corretta, adeguata, se lo sforzo non è eccessivo, se, certo, è allenante, certo, per il nostro cuore, perché noi facciamo attività fisica per anche il benessere del nostro apparato cardiovascolare, il che significa che deve essere fatta entro certi, esatto, limiti. Esatto, distinguiamo quindi subito bene attività fisica da sport, che sono due cose completamente diverse. L'attività fisica è quella che facciamo quotidianamente, allora la frequenza di base dovrebbe oscillare fra i 60 e gli 80 battiti al minuto. Sì. La calcolate bene tenendo il polso per almeno 30 secondi e moltiplicando per 2. A quel punto abbiamo la nostra frequenza. Siamo a posto. Se siamo fra i 60 e gli 80 di base, siamo in una buona condizione che ci consente di fare un'attività fisica che non deve normalmente far aumentare la frequenza a più di 120 battute al minuto. 120 è un limite massimo sul quale dobbiamo rallentare ed eventualmente fermarci e dare il recupero. Questo è un altro elemento importante. Il tempo di recupero, cioè il quanto il polso diminuisce nell'arco di un minuto dalla cessazione dell'attività fisica, è fondamentale per capire se il nostro organismo è abbastanza allenato e può riprendere. Oggi, se noi facciamo un allenamento ad esempio in palestra o usiamo un cardiofrequenzimetro, sì, utilizzano dei sistemi per cui abbiamo il minuto di recupero e ci dicono la nostra forma fisica qual è, in una scala di solito fra 1 e 6. 1 è la migliore, 6 è la peggiore. Meglio essere quindi intorno, intorno ai 2, intorno a 3, metà e metà. Dottor Gargiulo, oggi vogliamo anche parlare dei valori della nostra pressione, e sappiamo che tendiamo a misurarla poco o per eccesso, sì, a diventare pressione dipendenti. Ci sono delle persone che quando scoprono di essere ipertese continuano a misurarsi la pressione. Allora, ci sono dei momenti per misurare, sì, la pressione, sì, e ci sono anche delle situazioni che possono in qualche modo farla salire. E questo, è su questo che vorrei avere una sua indicazione. Ad esempio, quando andiamo dal medico, bravissima, l'ipertensione da camice bianco è un classico. La pressione non ha mai dato problemi, vado dal medico, pam, e ha dei valori altissimi. È vera? È ipertensione o solo il medico particolarmente no, emozionante? Non è soltanto particolarmente emozionante, anche se poi un aneddoto, se abbiamo due minuti, glielo racconterò più avanti. Però dobbiamo dire questo: effettivamente il momento in cui il bracciale della pressione stringe intorno al nostro braccio, qualcosa è succede. Quello che fa scattare, più che altro non è tanto il camice bianco, ma è quello che fa scattare la tensione emotiva, perché siamo preoccupati che possa essere troppo alta, abbiamo il momento, viviamo il momento come una visita medica vera e propria. E questo succede anche a casa, anche se si fa un'automisurazione della pressione. Infatti io consiglio sempre ai miei pazienti, gli ipertesi, per vedere se la vostra pressione è giusta, misuratela più volte. Cioè voi gonfiate, misurate, poi sgonfiate, rigonfiate, rimisurate. Lo fate 2, 3, 4 volte anche, fino a che non raggiungete un valore giusto. Allora a quel punto potete dire che la pressione è sotto controllo. Se questo valore giusto, dopo 3, 4, 5 volte che la misuriamo, non si raggiunge, vuol dire che la pressione è un po' più alta del normale ed è opportuno magari modificare la terapia. Ovviamente parliamo degli ipertesi, perché chi non è iperteso non faccia l'automisurazione. La deve far fare dal suo medico una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, quando capita magari per prendere le ricette per la nonna, i farmaci per il papà. Insomma, l'occasione è sempre buona, ma fatela fare dal medico. Non fate quelle automisurazioni in casa se non avete dal medico oppure dal farmacista. Oppure in farmacia, altrettanto giusto e corretto, perché anche lì è diversa fare una misurazione di questo tipo. Invece l'iperteso, che sa meglio maneggiare questo strumento, può misurare, anzi deve misurarsela da solo per darci un parametro in più. Se volete dare i numeri della vostra pressione, 800 24 00 24. Aspettavo l'aneddoto. Sì, l'aneddoto è successo una volta nel mio studio. Una bella ragazza con una minigonna in sala d'attesa, ho avuto tutti i maschi ipertesi per almeno 2 ore. Che bellezza, vuol dire che qualcosa ancora funziona, viva Dio. Loredana da Genova, Maria Teresa da Bergamo, benvenute a tutte e due. Loredana? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buon anno a tutti. Anche a lei, Loredana. Allora, intanto vorrei dire che mi ritengo molto fortunata, perché quest'anno per me è una seconda vita, dato che ho rischiato di morire soffocata da una cianoduba a Capodanno. Loredana. Quindi ha iniziato. Mi dica. Pronto? Sì, Loredana. Sì, niente. Poi volevo dire un attimo una cosa a proposito della respirazione. Sì. Io sono conduttrice di un corso di un'associazione benefica, di volontariato. Sì. E le mie ragazze, che arrivano fino a 84 anni, fanno queste respirazioni, perlomeno io cerco di fargliele fare. Sì. E mi piace tantissimo, perché sento proprio... E dall'età delle sue ragazze sembra che funzionino, quindi sì, intanto che lei parla, Loredana, il dottor Gargiulo ed io proviamo a respirare come ci ha consigliato Daniele Belloni. Posso chiedere una cosa velocissima, Loredana? Il rischio di soffocamento è stato risolto da qualcuno vicino a lei? È stato risolto da me, da mio marito. Con la manovra giusta. La manovra, sì, poi a forza di tossire la sottolineiamolo cinodura. Questo, Nicoletta, perché è importante che i nostri ascoltatori imparino queste manovre, poi magari ne parleremo una assolutamente volta. Questo è uno spunto che mi sento di raccogliere, e magari anche nel corso della trasmissione lei ci darà qualche benissimo indicazione, perché è vero che Capodanno è passato, ma ci sono tante occasioni, soprattutto con i bambini piccoli. Esatto. Loredana voleva darci quale valore? Allora, io do il mio polso. Sì. Che è 16,5. Sì. Non sono ipertesa, mi ritengo fortunata anche per quello. Adesso le mie pulsazioni saranno a 120, non lo so. E sono alta 1,65. Loredana, vedo che il dottor Gargiulo sta scrivendo. Fare i conti. Certo, qua non le ho dato neanche la calcolatrice. Pensate quanto è bravo il dottor Gargiulo. No, sono fortunato, perché Loredana 165, 16,5, 10 viene precisissimo. Perfetto. Grazie Loredana. Quindi sì, 10 è un valore che anche qua ci porta in un soggetto che è normolinea. Sopra 9,9, quindi con il suo 10 è normolinea, quindi altezza. Dovrebbe avere un peso adeguato all'altezza, che si calcola anche questo con una formula, l'abbiamo detta prima, però è giusto che la rivediamo. Io me la vado a rivedere perché non me la ricordo a memoria. Sì. Allora diciamo che in un uomo, in una donna, la situazione deve essere il peso 68 per altezza espressa in metri meno 51,5 se il polso è 18 centimetri. Nel caso specifico abbiamo un polso inferiore a 14, Quindi deve moltiplicare 68 per l'altezza in metri meno 61. Naturalmente queste formule le ritroverete anche sulla pagina del programma. Continuate a calcolare e a darci il polso della vostra situazione. Esatto. Situazione che noi oggi vogliamo esaminare attraverso questi tre parametri: circonferenza del polso, numero di battiti che potete naturalmente misurare prendendovi il polso o appoggiando le dita al collo, e poi naturalmente i valori della vostra pressione. Anche se siete normotesi, come suggeriva il dottor Gargiulo, ogni tanto dal medico o in farmacia, senza affanno, conviene fare questo check. Esatto. E l'inizio dell'anno, perché potrebbe essere una splendida occasione per farlo. Vorrei parlare con Maria Teresa, che ci chiama da Bergamo, ma poi c'è anche Marina, che sentiamo dopo i mercati, le amiche di Essere Benessere. Dottor Gargiulo la stanno festeggiando. Maria Teresa, buongiorno. Pronto, buongiorno, auguri a tutti, grazie di avermi chiamato. E i miei valori sono questi: il polso è 16, l'altezza 1,55. La pressione l'ho misurata con l'apparecchio poco fa, è 127 la massima, 79 la minima, il polso 81 e il mio peso oscilla dai 47, massimo 49. Ma Maria Teresa, mi sembra che ci abbia dato il dottor Gargiulo dei numeri straordinari, perfetti. 47-49 la frequenza del polso? No, 749 il peso. Ok, perfetto. Sì, mi sembra che i numeri siano perfetti. Avevo capito male soltanto quello della frequenza. Mi sembra che i numeri siano perfetti. Allora, rivediamoli, perché questa volta mi toccava usare la calcolatrice. 155 l'altezza, 16 il polso, esatto? Sì, noi donne abbiamo sempre un polso molto sottile. Quindi sì, siamo a 9,68. È un soggetto, in questo caso, con 9,68, sicuramente un brevilineo, perché chiaramente abbiamo una misura abbastanza bassa e quindi la misura del peso deve essere adeguata a questa brevilinearità. Allora, con un polso di questo tipo, inferiore a 18, andiamo a vedere, scusate, devo controllare, abbiamo sempre quel 68 che dicevamo prima, moltiplicato per l'altezza di metri, quindi moltiplicato per 1,55, meno 58 darà il peso più o meno ideale della nostra amica. Si inizia l'anno, e oggi con il dottor Gargiulo insieme a tanti altri ospiti il polso della situazione, e lo facciamo naturalmente con i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Circonferenza del polso, numero dei battiti e valori della pressione. È proprio lì, sulla pressione, che è concentrato il quizzettone di oggi. È una domanda molto semplice, in realtà ve l'avevamo già fatta qualche tempo fa. Parliamo di pressione: c'è un apparecchietto che serve per misurare la pressione in versione domiciliare, dal medico o dal farmacista, e c'è un signore, un medico, che l'ha inventata. Come si chiama? Dottor Gargiulo, la domanda è corretta, vuole dare qualche indicazione in più? La domanda è corretta, diamo un'indicazione in più. Questo apparecchio, che ha un bel po' di anni, è un apparecchio che ancora oggi è rimasto più o meno immodificato rispetto al prototipo, ed è stato inventato da un italiano. Ecco, è anche italiano. 800 24 00 24, chiamateci, Guida al benessere per la prima risposta corretta, il libro che ci aiuta, ce lo auguriamo, a diventare protagonisti del nostro benessere, un libro che ho scritto con Alberto Pellai e Paola Reverso. E abbiamo ancora Marina, che ci chiama da Mantova, che è in linea con noi. Marina, buongiorno, che abbiamo traghettato nei mercati e sul meteo. Marina, eccoci. Buongiorno. Buongiorno, ribuongiorno. Buongiorno. Ecco, se ci dice i suoi valori. Allora, i miei dati sono il polso 18. Sì. Sono alta 1,83. 1,83. Sì. Bella, alta, slanciata, dottor Gargiulo. Se fossi un pochettino più magra. Vabbè, ma non siamo mai contenti. Però 1,83, altezza e mezza bellezza. Glielo dico io che sono alta 1,64, ma mi metto i tacchi. Dottor Gargiulo. Bene, per un'altezza così un polso da 18 va bene, perché tutto sommato siamo intorno a 9,9 il rapporto altezza-polso. 9,9 ci identifica un soggetto che è normolineo, quindi va benissimo, siamo proprio giusti. E allora vediamo un attimo il peso, senza che la nostra amica ce lo dica, andiamo a calcolare quello che potrebbe essere il suo peso ideale. Quindi dovrebbe essere 68, come dicevamo prima, che è questo numero un po' magico che noi mettiamo sempre davanti per calcolare questa formula, moltiplicato l'altezza in metri, che abbiamo detto che è 1,83, e allora lo vado a fare con la calcolatrice. 68 per 1,83 ci dà un numero che è 124,4, da cui dobbiamo sottrarre 61. Il peso ideale della nostra amica dovrebbe essere intorno ai 60, no, 63 non può essere, ho fatto un errore io. Bene, un attimo di pazienza, poi lo rifaremo. Marina, mi ha mandato in tilt il dottor Gargiulo, pensi lei, ha dato i numeri e il dottor Gargiulo è andato in tilt, ma le comunicheremo sicuramente il suo peso ideale. 800 24 00 24, andiamo a un uomo, a un suo omonimo, dottor Gargiulo, sì. Perché abbiamo in linea Carlo che ci chiama da Lecco. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Volevo sapere, io la pressione minima spesso, quasi sempre, la becco intorno al 90. È da considerarsi ipertireso o quasi normale? Grazie Carlo, questa è una bella domanda, perché noi leggiamo sempre che la pressione ottimale è 120 su 80. Esattamente, ecco. E questa è l'ottimale. Il valore di 90 di minima, adesso sarebbe interessante sapere anche la massima, ma insomma diamo la massima per giusta, intorno ai 130-140, è un valore borderline cosiddetto, cioè un valore che deve darci un po' di attenzione. Qualcosa nello stile di vita probabilmente deve cambiare, un po' più di attività fisica, bisogna stare un po' attenti all'alimentazione, diminuire un po' il sale in questo caso, perché questo valore dovrebbe scendere. Non è un valore da trattare con i farmaci assolutamente, ma solo da cercare di abbassare con lo stile di vita e tenere sotto controllo. Se dovesse superare i 95, a quel punto si entreranno in gioco dei farmaci. Randino, che ci chiama da Monza, buongiorno. Buongiorno a voi. Una domanda al dottor Gargiulo, vediamo se riesce a... Sì, perché ho capito dalla sua... vediamo se riesco a metterlo un po' in difficoltà. Sicuro? Vada, Randino. No. Io, allora, sono un cardiopatico, ho avuto un infarto 7-8 anni fa, eccetera. Cose passate, ok. Da alcuni anni ho comprato l'apparecchio per misurare la pressione, dunque a volte mi capita di misurarla spesso. Il più delle volte, quasi sempre, diciamo, il braccio sinistro misura 10-15 valori in meno del braccio destro. Ho provato a dirlo al mio medico, però lui dice, diciamo che non ci ha creduto molto. Sì, a me è piaciuto come ha detto il medico. Il medico dice, allora, ha borbottato qualche cosa, no? Le ha dato soddisfazione. Dottor Gargiulo, ci provi lei. Ha fatto male il suo medico a non dare peso a questa cosa. Perché, allora, diciamo subito, una differenza di 10-15 mm è una differenza quasi fisiologica, ci possiamo stare. Di solito sono 10 mm di mercurio di differenza fra un braccio e l'altro. Sopra i 15 mm di mercurio è segno che qualcosa non va nelle arterie del braccio, perché potrebbe esserci una piccola stenosi che provoca un aumento di pressione differenziato fra un braccio e l'altro. Le dovrebbe fare anche un'altra cosa molto interessante, cioè misurare la pressione alle due braccia e alle due gambe e vedere se ci sono delle differenze di lato anche fra le gambe. A quel punto dovremmo pensare che effettivamente c'è un problema circolatorio che va studiato, come con un Doppler arterioso degli arti superiori e degli arti inferiori. Con quello ci mettiamo tranquilli. Non è il caso di controllare la pressione? La mia pressione? Sarebbe responsabile non farlo. Vantaggi e benefici dell'Eros. Fare l'amore fa bene all'amore e alla salute, forse anche alla nostra pressione, a sentire da questa clip. In linea con noi abbiamo il professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila, che è tornato a trovarci. Professore, sono molto felice di averla in linea, buongiorno. Grazie, anch'io, auguri a tutti. Professore, che cosa mi dice? Gli ormoni impazzano, la circolazione su di giri, ma anche la pressione aumenta, è un aumento piacevole fisiologico. Ma dunque, l'erezione è un fenomeno di ipertensione locale, diciamo così, nel senso che quando avviene l'erezione cresce la pressione nei vasi all'interno dei corpi cavernosi, ed è quello che succede anche alla donna durante la lubrificazione, quindi l'eccitazione è sostanzialmente una ipertensione locale, quindi da questo punto di vista, come dire, è un fenomeno positivo. Assolutamente positivo e fisiologico, ma se la pressione è alta anche fuori dalla camera da letto, ahimè, le gioie del talamo sono a rischio, professore, è vero? Ma è verissimo, diciamo che la ipertensione è un sintomo e le disfunzioni sessuali lo sono altrettanto. Questi due sintomi sono tra di loro estremamente connessi e collegati, nel senso che quando si accende la spia rossa della ipertensione ci dice che qualcosa non va nel nostro sistema circolatorio, e questo qualcosa che non va nel sistema circolatorio quasi inevitabilmente si rifletterà a letto. A letto soffriremo di patologia della lubrificazione nella donna, di patologia dell'erezione nel maschio, proprio a partire da quel sintomo, da quel campanello di allarme che è appunto l'ipertensione. Il collega amico carissimo Carlo Gargiulo poc'anzi faceva riferimento proprio a questi aspetti di cambiamento di stile di vita che sono fondamentali per controllare la pressione da una parte e la performance sessuale dall'altra. Grazie professor Iannini per essere stato con noi, buon anno ancora. A voi, grazie. A presto, arrivederci. Dottor Gargiulo, quindi quando noi diciamo che l'amore è veramente la spia, Far bene l'amore fa bene a tutto l'organismo, questo lo sappiamo, quindi l'abbiamo detto. È quasi un farmaco. Esatto, e quei casi di disfunzione erettile di cui parlava giustamente Emanuele Iannini sono quei casi in cui noi dobbiamo stare attenti che qualcosa possa non funzionare dal punto di vista generale. Nel caso specifico parlatene con il vostro medico, perché spesso il medico non chiede come va la tua attività sessuale. È invece mi permetto di suggerirlo, si dovrebbe chiedere, perché Noi si racconta così tante cose, perché non chiederlo? Perché in realtà veniamo un po' da una scuola di medicina che non ce l'ha insegnato. Io dico sempre che l'anamnesi che facciamo noi, cioè le domande che facciamo ai pazienti, si fermano all'ombelico e ricominciano all'inguine, ma solo perché ci sono le ernie, se no comincerebbero più in basso. Ce ne siamo dimenticati per tanti anni, per troppi anni. Addirittura uno studio fatto al San Raffaele di Milano dimostra che sapere che il paziente ha la disfunzione erettile dà un parametro importante come l'esame del fondo dell'occhio, e costa niente, basta solo chiedere. E noi non ci siamo dimenticati invece di Marina, di cui abbiamo lei ci ha detto sono alta, ma se fossi un po' più magra, sa che noi non siamo mai contente, cerchiamo di essere un po' contente all'inizio di questo anno. Dottor Gargiulo, allora, qual era il peso di Marina? Marina era alta 1,83, aveva dato questa misura di polso e diciamo che dovrebbe oscillare il suo peso fra i 73 e i 78 kg grosso modo. Io Marina sono sicuro che lei è sotto i 78. No. Il dottor Gargiulo e a Marina e agli ascoltatori che vogliono proprio con l'inizio del nuovo anno migliorare, mettere un po' a punto il loro stile alimentare, io ricordo la pagina di Mangia con me, il nostro reality per mangiare meglio, dove ci sono delle ricette molto buone suggerite da Stefano Polato sotto la supervisione del dottor Ongaro, ricette a cui ci possiamo ispirare per dei menù equilibrati, per aggiungere sapore, gusto e soprattutto salute al nostro quotidiano. E sì, perché anche la pressione ha il suo tempo, i suoi momenti. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti e se si può dire buon anno. Buon anno, noi lo diciamo ancora per tutta questa settimana, non si sa mai, almeno porta buono. Infatti. Professor Manfredini, ci sono delle ore importanti ad hoc per misurare la pressione? Beh, intanto, come giustamente ha detto lei, la pressione arteriosa ha una sua ora, nel senso che non è mai uguale, oscilla nell'arco della giornata con dei momenti più alti e più bassi, ha un suo cosiddetto ritmo circadiano, che è naturalmente mediato da una serie di impulsi del nostro orologio biologico, ma anche dal sonno, dall'attività, dallo stress, e quindi abbiamo senz'altro dei valori un pochino più alti fisiologicamente nel pomeriggio. Abbiamo un secondo picco in cui la pressione è più alta ed è al mattino appena ci svegliamo, e durante la notte dovremmo avere invece dei valori particolarmente bassi durante il sonno. Quindi uno deve sapere che a seconda dell'ora in cui se la misura può aspettarsi dei valori più alti o più bassi. Esatto, e soprattutto anche questo ci aiuta a capire qual è il momento migliore per assumere la terapia, là dove il medico ci prescrive la terapia antipertensiva, vero professore? Certo, diciamo in realtà che così come consiglio alle persone possiamo dare quello di misurarla magari sempre alla stessa ora, proprio per evitare queste variazioni che sarebbero fisiologiche, ma che potrebbero magari mettere un po' di confusione sul fatto che qualche millimetro più alta, qualche millimetro più bassa. Questa, insomma, professore, come quando le nostre mamme ci dicevano c'è l'ora della febbre, di solito la mia mamma me la misurava alle 5 del pomeriggio, io ho sempre creduto e credo tuttora che sia vera quell'ora, c'è anche l'ora della pressione. Non solo è vera quella della temperatura, è sacrosanta, anzi il ritmo circadiano della temperatura corporea è un drive importante per tutte le attività metaboliche dell'organismo, quindi le ore del pomeriggio sono esattamente quelle in cui l'organismo produce più calore, perché gli enzimi e le cellule lavorano di più e per quello abbiamo la temperatura un po' più alta, addirittura anche fino a un grado rispetto alla mattina. Vede, e quando che poi mamma viene la febbre è quella l'ora in cui si alza, quindi la nonna aveva ragionissima. Mentre per la pressione, quindi cerchiamo di misurarla sempre alla stessa ora, non un po' al mattino, un po' al pomeriggio, quando ci viene lo sghiribizzo, e per la terapia, quando è il momento migliore per assumerla? Dunque, diciamo che così per abitudine ormai è consolidato il fatto, così parlando in generale, che sia la terapia venga assunta la mattina, magari al momento di quando uno fa colazione oppure quando si è alzato. Questa può andare bene detta così come linea generale, poi in realtà caso per caso sarà il medico a dare un consiglio, per esempio se la persona ha dei valori pressori anche alti anche durante la notte, quindi il cosiddetto iperteso non dipper, allora forse in questi casi selezionati il medico metterà anche un farmaco antipertensivo la sera per cercare di aiutare il cuore durante le ore notturne. Diciamo che in linea generale la terapia va assunta al mattino e dovremmo essere sicuri che il farmaco che stiamo prendendo duri nel sangue 24 ore, cioè per coprire fino alla mattina successiva. Perché alla mattina, alle prime ore del mattino, come dicevamo col dottor Gargiulo, vero? Sono le ore molto delicate per il nostro cuore, dottore. Sono delle ore, vero, molto delicate, perché c'è tutta una serie di fenomeni che si innescano nelle prime ore del mattino, fra cui per esempio lo stress del risveglio, le catecolamine, quindi l'adrenalina che fa battere il cuore di più, le coronarie sono un pochino più strette, le piastrine si aggregano un po' di più, insomma è un momento un pochino critico e sarebbe meglio fare in modo di essere protetti adeguatamente. Ma la buona notizia è che c'è anche una giornata critica che è il lunedì, questa l'abbiamo scampata, vero? Professore, anche questo lunedì ce l'abbiamo fatta. Grazie professore, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi e buon lavoro. Beh, in effetti lo dico sempre io che il risveglio è un trauma. Lunedì poi. Dopo le vacanze di Natale, dopo la Befana, l'Epifania che tutte le feste le porta via, Roberto c'è però da Roma, quindi si è svegliato splendidamente. Eccolo qua, buongiorno, benvenuto. Grazie, grazie a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno dottor Gargiulo, volevo portare brevemente la mia testimonianza negli ultimi anni di sport. In valori che sono cambiati secondo me in meglio, ho avuto una pressione 120-70, oggi si è abbassata intorno ai 110, i miei battiti a riposo sono cambiati da 72-73 a 60, la mia frequenza cardiaca massima adesso arriva a 188 e per avere 51 anni mi dicono essere valori egregi. Sì. Quindi volevo sapere dal dottore, insomma, se ha detto proprio egregi, come con le due G, un po' come dite a Roma, dottor Gargiulo, egregi. Perché parliamo male dei romani, eh? No, io li adoro. Insomma, con l'attività fisica Roberto ha cambiato un po' i suoi parametri, valori. Esattamente, e ha fatto quello che noi consigliamo tante volte. Ho visto 120-70 che scende a 110, questa massima che perde 10 mm di mercurio. Immaginiamoci in un soggetto, lui già era buona 120-70, ma immaginiamo un soggetto di 140-90 che perde 10 mm e rientra nella normalità, quindi ottima cosa. Frequenza cardiaca è scesa da 72 a 60, è quella classica bradicardia dello sportivo che in condizioni normali gli consente di avere una frequenza giusta, perché 60 è ancora giusta, ma che gli consente di avere una grossa disponibilità, un grosso residuo nel momento dello sforzo, il cuore ha una riserva eccezionale. Quel 188 di battiti al massimo mi lascia un po' dubbioso, però io credo che il nostro amico sia uno sportivo serio e quindi quel 188 dovrebbe essere un impegno particolarmente efficace. Io la terrei un po' più bassa, cioè diminuirei un po' l'impegno, mi fermerei intorno ai 150. Vi ricordo anche il quizzettone di oggi, chi è quel italiano, sì, che però era anche un po' un addetto ai lavori, Beh, medico. Ecco, diciamolo, medico, che ha inventato l'apparecchietto per misurare la pressione. 800 24 00 24. Fatevi avanti con coraggio. E noi intanto andiamo a salutare Stefano Polato. Ciao Stefano. Buongiorno, ciao Nicoletta. Ciao Stefano, il nostro cuoco, il cuoco di Mangia con me. Ti ho citato prima, Stefano, e noi ci sentiremo anche nel corso della settimana, perché con il dottor Gargiulo abbiamo sottolineato anche come il sale sia un da ridurre per aiutare la nostra pressione a scendere. E allora che cosa abbiamo pensato? Di chiedere a Stefano Polato di prepararci per questa settimana 5 piatti, 5 ricette con un base con poco sale, o se riesce proprio anche senza neanche un pizzichino di sale, perché poi combinandoli insieme noi possiamo preparare un pranzo 5 portate addirittura senza sale. Stefano, che cosa ci hai consigliato per oggi? Sì, ascoltando la trasmissione sì, va andata ad avallare quello che gli studiosi sottolineano. Il sale è veramente un elemento inquinante per la nostra cucina, quindi dobbiamo imparare ad abituare il nostro palato ad usarne veramente meno, utilizzando quella grandissima quantità di spezie di cui disponiamo. Faccio qualche esempio: il rosmarino, il timo, ideale per condire il pesce, la noce moscata per la preparazione di salse e risotti, maggiorana, timo, ma ancora curry, zafferano, semi di sesamo. Abbiamo una varietà infinita. E oggi, per tentare di tornare in forma dopo le feste, ma non deve essere solo questo, deve essere un iter da continuare per tutta la nostra vita alimentare, se non altro, sì. Ho fatto questa proposta. Un piatto unico, ideale per il pranzo. Dai. Del riso integrale con pollo al curry, sì, e broccoli al vapore. Quindi andiamo a bollire il riso integrale in abbondante acqua, sì, all'interno della quale buttiamo una bustina di zafferano. Quindi questo sarà l'insaporitore. Lo colora anche, vero? Esatto. Quindi tornerà, avremo un riso giallo alla fine, sì, della cottura. Con il vapore sprigionato dalla bollitura del riso andiamo a cuocere al vapore dei broccoli verdi o broccoli romani. Sì. Nel frattempo che ha pensato al dottor Gargiulo, che li trova facilmente, quindi nel frattempo che cuoce il riso e i broccoli, andiamo a tagliare un pezzo di pollo a dadini, lo saltiamo con olio extravergine di oliva, qualche fettina di porro affettato, e lo insaporiamo con il curry. Qui possiamo andare a piacere secondo i nostri gusti. Anzi, comunque, il curry, dottor Gargiulo, fa benissimo, sì, vero? Effettivamente è anche antiossidante, quindi. E quindi quando si dice che a tavola non si invecchia, e quindi aggiungiamo il curry al nostro polletto e voilà, al nostro pollo, e andiamo ad impiattare. Abbiamo due scelte: o mescoliamo il tutto e facciamo una specie di insalata di riso tiepida, oppure possiamo mettere in un angolo il riso, in un angolo il pollo al curry e in un altro angolo i broccoli insaporiti con dei semi di sesamo tostati. A me piace più nella versione divisa, perché cosa dici, Stefano? Direi di sì, così uno gioca anche con un i colori, po' con i colori. Al dottor Gargiulo, se aggiungessimo due gocce di pomodoro al pollo al curry verrebbe bianco, rosso e verde. Perfetto, vedi, abbiamo anche l'aggiunta del dottor Gargiulo. Naturalmente la ricetta la trovate sulla pagina di Essere Benessere. Stefano, ti ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a domani con un'altra ricettina di Stefano Polato. Grazie a voi. Grazie, grazie Stefano. Allora, abbiamo in linea Andrea, che ci chiama da Roma. Andrea, salve. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione e ancora auguri di buon anno. Bravo, salve. Mi piace molto già. Allora, e mi dicono dalla regia che lei ha la risposta. Credo, sì, credo di aver risposto correttamente. Secondo credo, me sì. Provi, saprei. Provi. Dunque, l'italiano che appunto mi si è concepito tale ausilio è Rivarocci, il famoso bracciale di Rivarocci, però non so se è corretta la risposta. E di nome faceva anche sci? Scipione, lo Scipione. Dico io. Via. Grazie Andrea, lei riceverà a casa il Guida al Benessere per un 2013 in pieno benessere. Ringraziamo il dottor Carlo Gargiulo per essere stato con noi, grazie, speriamo Nicoletta. Di averlo qua presto. Grazie agli ascoltatori. Appuntamento a domani. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Grazie per essere stati con me, io vi aspetto domani.